sono già fatto e trovato c'è gente, la radio già è accesa. Ciao, buona domenica. Cappa, buona domenica anche a te, cra. Cappa, in chi mi viene da fare roba, Vabbè, oggi c'è gente anche a pranzo, di l'aria, capito? Facciamo una rostita, anche se c'è vento, comunque già sta bene. Non credo che ci sia di meglio. Ammazzati in Italia. Hai visto che a Milano tutto pulito il tetto, non c'è rimasto più niente? Non l'ho visto ancora, no. Non l'ho ancora visto. È tolto tutto, non c'è rimasto più niente. Cappa. Se può guardare tu. Non passare altro tu. Aspetta un attimo. Hola. Ecco qua. E già arrivi bene comunque, già vi ascolto tutti, non c'è problema. Kappa. Stavo regolando un po'. Io c'ho solo questo baracchino, adesso la roba, tanto la scatola ancora, non ho messo niente. Sto andando con quello fatto. Brecco. Avanti il break. Buongiorno a tutti. Che c'è? Ho sentito Claudio, poi che c'è? Tutti morti. Ah, tu? Kappa, c'è Claudio e poi io. Poi non lo so chi c'è altro. Bene, ti arrivo, Robè. Quasi 9 più 30. Sì, già va bene, dai. E l'altra radio, tutto a posto? Tutto a posto. Ehi, lasci chi c'ha vento, arriva sì, un po' monellina, ma non fa niente. Ciao Robè, buongiorno, scusa che sto preparando, c'ho gente a pranzo, se mi senti. A voglia, quasi 9.25, sì. Ehi, già va bene, dai, l'antenna ancora non è montata bene, tutto da sistemare, ma l'importante è che vi ascolti tutti. Che antenna è? A Mantova questa, Ah, va bene, Ehi, ma è bassa, è 2 metri, dai, devo fare bene il lavoro, l'ho messa a provvisorio, poi vediamo. Già lo sai, quando vuoi. Vabbè, sto ascoltando molto, la verità, sto ascoltando a vedere se ne vale la pena fare l'impianto fatto bene, perché miseri siamo sempre butti a capo, anche ieri c'erano dei disturbi, delle cose, va bene, dai, io vi lascio e ci aggiorniamo, ciao a tutti, buona domenica. Mi va che vi so e zicchini sempre. Ora. Ma non ti preoccupare che già lo gioco già. L'idea l'ho fatta ed è quella giusta, non ti preoccupare. Non mi sbaglio, non mi sbaglio assolutamente. HMPG, va, che è meglio. Vedete voi, tanto io ne sono fuori e non mi interessa più niente. Non abito più a Sassa, raggiungetevi, fate voi, ok? Ciao, buona domenica a tutti. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao Cla, buona domenica, ci sentiamo. Manto, con cosa stai uscendo tu? Con 87. Sta arrivando un bello forte. Ah, vero? Allora, l'altro giorno, quando ero... ho letto che c'ho questa radio diretta piccolina, tipo un pacchetto di sigarette. Nel letto, che stavo ascoltando, c'eravate tu, Franco, Binario, non mi ricordo chi c'era l'altro. E sentivo sempre questa portante sotto, tun tun tun tun tun tun tun tun. Era a livello vostro di segnale, però probabilmente voi non la sentivate. No, la stavamo ignorando perché lì Mauscia si ignorano, la gente del genere. Li stavamo completamente ignorando. Ed è la cosa migliore, tanto stavate parlando, vi sentivate tutti, però io qua la sentivo un bel forte. Nel senso, quando probabilmente se parlava vi era più forte di voi, però proprio come parlavate faceva tum tum tum tum. Aspetta, che cosa sta succedendo qua? E poi mi sono reso conto che era solo quando parlavate voi. Sì, no, ma non penso che ci passavano da lì. Non penso, No, non vi passava perché non stava parlando, magari se parlava forse disturbava, però vi sentivo tutti, soprattutto Franco, cate c'è una bomba era. E stavo uscendo con un baracchino, non ricordo che cosa era, proprio bella voce. Vabbè, tu già ti ascolto sempre, comunque forte, però Franco era un bel forte. Già lo so. Io già stavo, stavamo ignorando, lo sapevamo, tanto, cioè io e Luca arriviamo forti, quindi come devo andare? Ora. C'era anche Luca adesso, mi ricordo l'altro giorno. Ma la cosa strana, io ho visto un video, mi hanno mandato un video, quando c'era questa portante e poi sotto diceva anche qualcosa, che a me arrivava un bel forte, più forte di Giulio, arrivava 9,25 e non ho capito esattamente la zona, perché voi vi arrivava 9 di lì, non riesco a capire, avevate anche uno in macchina. Non ti preoccupare che già abbiamo capito, già non siamo stupidi, abbiamo capito dove era il problema. Anche io in un primo momento avevo capito, e poi invece è strana la cosa, perché ho detto, se in quella zona lì deve arrivare più forte a voi che a me, invece no. A chi gioca? Perché a Giulio dice gli arrivava a 7, sì, 8, ma a me era 9,25. Ti sto dicendo che gioca con le antenne, a puttidine. Vabbè, contento vedo, io non lo so che scopo c'è uno a fare una cosa del genere. Dammi un controllo di segnale, per curiosità, che ho cambiato un po' di roba a questa stazione, ho tolto degli strumenti, ne ho messo altri. Cappa. Qua sì, 9.30 Radio 5. Il solito segnale, non è cambiato niente. No, non è cambiato niente. Io come arrivo ancora? Ma è ancora meglio di 9.30? No, sei 9.30 qua. Ah, va bene, dai. Bella forte e chiara la voce, poi il microfono. Che microfono è questo? Magappa. Il suo microfono rubunoshu. Questo rimane qua perché ci tengo. Mi ha regalato una persona che le voglio bene, quindi non si muoverà qua. Sì, tu sì che mi capisci. Mi ha Natalino Alfa 1. Ciao Robè. Non è che sai se qualcuno sta vendendo qualche cappano, perché ne sto cercando uno per ascoltare, non per usarlo, perché se lo uso qua, cazzo, non si sa cosa possa succedere. Mi serve solo per ascoltare. No, nessuno. Dimmi, ma guardate come prenderti quelle, come si chiama, quelle tipo le chiavette, quei piccoli ricevitori che costano con 100 euro, 80 euro, ricevi tutto. No, non mi conviene perché non riesco a sintonizzarlo. Mi è sempre stata antipatica. No, già, diciamo, se c'è la possibilità già divertente, dai. No, invece a me non mi piace proprio. Non riesco a sintonizzare e ho macello. E allora preferisco buscarmi un apparato, il ricevitore non ne ho buscato e quindi mi busco uno di quelli, cosa vuoi ti dico? Speriamo che qualcuno lo venda, così me lo compro. Ma bisogna vedere, su internet già c'è qualcosa, ho visto un 140, un 430, vedi un po'. Cosa vuoi, che tipo di radio vuoi? È una di quelle che hai elencato tu. Un 140 oppure un 440, vediamo un pochettino, qualcosa forse si trova, provo a spargere un po' la voce, anche un 430 eventualmente. Ma non l'ho mai avuto, quindi non è, lo conosco il 430, e neanche il 140 a dire la verità, lo conosco ma non l'ho mai avuto il 140. Basta Natalia, io ce l'ho una bella radio. Io lo so, ma io non l'ho mai avuto, l'ho usato sì da qualche amico, ma non l'ho mai avuto. Ho avuto due 440 che erano delle belve. Ne avevo avuto tutti e due, più di due ne ho avuto, cioè 140, anzi no, 140 uno, di 440 3. 140 invece, non me la ricordavo. Cos'è? 140! E io? Il 940 ho usato anche, quello è bello, mi piace un bel. Sì, è bello il 940, una bellissima radio, con l'alimentatore incorporato, eccetera. Bella radio, bella ingombrante, pesante, c'ha un bel ricevitore. 140S! Sì, 140 è il modello piccolo della Kenwood, quello diciamo il primo gradino della Kenwood degli HF, e poi sono tutti gli altri, sono saliti su. No, 140S è grande, poco più di un baracchino, capito? Mi piace più il 440, capito? Non invece il 140 è un po' così. No, ho detto piccolo, non come dimensioni, tanto piccolo di scala, perché come dire, la Fiat inizia dalla 500 e arriva alla Croma, così era la Kenwood in quel periodo lì, 140, poi c'erano 440, 940, a salire fino a su tutta la catena c'era, la serie 40 era così, c'era la 680, c'era i 1020. Diciamo il primo HF amatoriale di come tutti gli altri, dai. Così. E chi c'era prima del 140 di quella linea lì? Quelle sono nate dopo, prima di quelli c'erano tutte la serie 120, 130, io le ho usate tutte, quelle sono venute molto molto dopo. I primi che ha fatto la Kenwood de Trio sono il 120 e il 130 della serie 1, poi della serie 4 ha fatto il 430 prima del 440. Sì, no, ma io sto parlando della serie 40, 140, 440, 940, poi c'era la serie 130, 830, eccetera, 930, e prima di quella c'era la 120, cioè io sto parlando di quella serie lì, di quell'epoca lì. 140 è uscito dopo il 430, il primo ti ho detto che ha fatto della serie 4 il 430. Poi è uscito il 140 e poi è uscito il 440, poi hanno fatto il 680 con i semi. Ma io forse non hai compreso quello che sto dicendo. La serie del 140, 440 sono più o meno tutti dallo stesso periodo. Ed era il primo gradino, diciamo, il primo HF piccolino, piccolo nel senso come prezzo. Prima di quella poi c'era la serie 30, poi c'era la serie 20, prima e la serie 10, questa era l'ordine. Poi adesso è arrivata la serie 50, poi 90, adesso sono arrivati anche la serie 90. Cosa costava il 140? Quando è uscito il 100 io li ho comprati tutti nuovi a Mario Ontari, tutti, sia il 940, sia il 440, sia il 430, sia il 140, sia il 680, e lascia perdere. Il 140 quando è uscito costava 2.450.000 lire. Sì, sicuramente un bel di là, però il 440 era il modello superiore, io sto dicendo come scala di valori, e poi c'era, dopo il 440 c'era il 940, io sto parlando così, era il primo HF come prezzo, poi c'era tutta la serie superiore, non è che sto dicendo che è una cagata, sto dicendo come prezzo era quello più basso, se prendevi un 440 costava ancora di più, il 940 non ne va a vedere. Guarda, io ti posso dire da Kenwoodiano, nessuno mi può smentire, a me personalmente, che il 430 e il 440 se lo mette nel buco del culo, capite? Come dice il trasmettitore. E non ha neanche difetti, assolutamente. Perché il 440 è nato difettoso, il 430 essendo molto più meccanico, dice il trasmettitore che non ha avversari, se tu lo paragoni al 940 ti spaventi. Lui dice uno che li ha provati tutti, comunque la scala è quella, non c'è niente da fare, primo è il 430, secondo è il 440 e poi a seguire viene 680 e 140, il 140 di quella sì, ma non ha niente da invidiare, il 430 si rimangia tutti, nudi e crudi. Sì, come trasmettitore sicuramente. Avanti a tu. No, capa, no, parlate, che io ho dato un colpo importante, ma no. Parlate, non c'è problema. Ah, ma hai cambiato radio? Parlate, sono intervenuto così, giusto per dire la mia. Non c'è problema. Continuate voi, ciao anche Natalino, buongiorno, ben ascoltato, già arrivi anche qua. Ok, dai. Vi saluto a tutti, io sono col baracchino 4 volte, quindi se mi sentite va bene, altrimenti pazienza. È cambiato radio rispetto a prima? Sì, adesso sto andando col DAC, il microfono normale. Ehi, come mi ascolti a me? Guardatemi qua. Cosa Natalì? Con 4 watt sto uscendo. Io non sono su a Sassari, no. Sono abbastanza lontano da voi, quindi arrivate tutti, vi ascolto sempre, arrivate tutti magnificamente bene, nonostante io sia ancora in condizioni precarie. Comunque, come ti ascolto, che cosa roba? Di segnale, che segnale mi dai? No, il più vecchio arrivi tu, per il momento sei quello che arriva più forte di tutti. Assieme a Antonello, quelli che arrivate più forte qua siete tu e Antonello per il momento. Però vi sento tutti, dai, devo ancora sistemarmi, non ho non ho né voglia né tempo in questo momento, è giusto così per tenere le radio accese, soprattutto queste valvolari, capito, altrimenti si guarda. Va bene, dai, ti abbraccio, buona domenica, se coincide ci sentiamo più tardi, che sto preparando, ok, che c'ho gente a pranzo. Cos'è, in augurio di una graviglia da giudando, però ci vuole un pezzo grande, ridimmi. Guarda, c'ho un bel di carne, non ti preoccupare. Saremo i 6-7, ma sono tutte, solo un maschio, cioè, le altre sono tutte donne perché sono colleghe di Laria, dai. Ce le ho tutte a pranzo oggi. Va bene, so che c'è un po' di vento, sto aspettando che cade il vento per iniziare a fare, accendere il fuoco, insomma ci consuma il carbone. Ciao ragazzi, divertitevela. Ok, con questa più basso ti arrivo, Robert, vero? Sì, un pochettino più basso, quella era 9,25, quasi qua 6,9 più 20, poco meno, eh? Sì, vabbè, questa c'ha 3 watt, di nuovo andatene a far culo, sto latte. No, non ha conto più se la piglia e non ammazza. Forse devo mettere il valvole, mi sta costando un capitale. Dai, ciao ragazzi, buon divertimento, buon tutto alle prossimine, vai a tu. Capa, ciao cra, ce la risentiamo alle prossimine. Sicurate che ti arrivo pure io, dai. Avanti Natali. Capa, divertite la cla, alle prossime. Guarda se senti qualcuno che c'ha qualche cappa da vendere. Se sento qualcosa ti avviso. Natali Capitioni, ho più video venduti tutti, sia il 440 che il 140, mi è rimasto solo la linea del 430 e non l'ho già ancora piazzata, l'ho provata quando è arrivata perché l'avevo mandata a mettere a posto e non l'ho ancora attaccata, capito? Quindi se sento qualcosa ti sì, tu arrivi, 9 più 10, però ti ripeto, quando attacco il campo poi vi do i segnali giusti, dai, per il momento siete così, può darsi che siano anche più alti rispetto a questi baracchi. Ok, ciao a tutti, dai, ci aggiorniamo, ciao. E ciao, dai, ci sentiamo. Sopra che tocca. Aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo, attento nel canale 10 che vuole entrare. Cacchio, cambiando discorso, tornando al discorso della graviglia, della rossita, amica mia l'altro giorno mi ha chiamato, dove posso andare a comprare una graticola per arrossire? Vai da Ombra, da Gioppina, dai Cinesi. Cacchio, andata, lo sai che non ne hanno voluto vendere? E poi cosa? Perché non si possono vendere per il discorso del Covid, perché sennò fai assembramenti. Ma io sono a casa mia in Buda, sola con due miei figli. No, non ne ha potuto vendere, loro e nei cinesi ne hanno venduto, c'erano ma non ne hanno venduto. Ma ti immaginai? Vai, ci mettiamo a mezzo, vai. Prima la sonda attrice, meglio, un ferro, non posso vedere io la graviglia. Se no pigli una cosa di frigorifero, un ripiano di frigorifero. E che cacchio è assurdo, ma ti pare che tu cacchio, se io sono da solo a casa, tu dici no, non ne possiamo vendere, se no ci mettono la multa. Non è sbagliato, no, Roberto. Però, io mi ha fatto usare la luce la roba, va via, uno scaldabagno tagliato a metà, però c'avevo il piedistallo, tutto, come tu fatti che sui va via io. E io come arrivi a casa da travagliare, mi era pure mi la fatto la russa, spuro si va via un bollo, mi ha rotto. Tempo fa sono andato sulla Conforama un paio di settimane fa, ho fatto la spesa e c'erano questi pantaloni in offerta a 10 euro, e dopo ti ho detto me li prendo per officina, tanto costano poco. Cazzo, vado a casa, alla cassa, vado a fare, no, questi non li posso, come li potete vendere? No, e questi erano nella cesta dove c'è il nastro bianco rosso, non si possono vendere per il Covid. Dove per il Covid? No, se no facciamo concorrenza ai negozi di abbigliamento, come i centri commerciali, noi possiamo vendere solo alimentari. Guardate bene, non me lo puoi dare, no, mi dispiace, non posso darlo. Per carità. Ma ti rendi conto a che punto siamo arrivati? A un punto che ti sto pigliando per il sedere, scusando la frase. Gesù Cristo mio, cosa mi tocca intendere? Guarda che ci stanno togliendo le libertà anche elementari, cioè sta diventando una cosa fuori dal mercato. E se che attenti non si ribelleggia la popolazione, se no vuoi vedere la pigliata fa debbi da cui e tutti pure, anch'io. Guarda, stiamo sopportando. Il problema è che non siamo siamo uniti, perché la popolazione ci sono quelli che hanno gli stipendi fissi, di tanto a noi non si tocca, non si tocca. Però poi invece, come ho detto io, a togliere a tutti quanti, soprattutto agli impiegati, agli insegnanti, quelli che hanno lo stipendio fisso, dice allora togliamo a tutti voi il 10% degli stipendi e lo doniamo alle attività in crisi, tipo ristoranti, bar, certi, tutti i parchi divertimenti, turismo, eccetera. E se invece si ribella la popolazione? Appunto Maghiccio, per carità, lo stiamo andando a finire. Perché è vero quello che dice Roberto Antù, praticamente a chi troppo e a chi nulla, c'è gente che non c'ha neanche pane per mangiare, mi usai. Già lo so, già. Roberto, è aumentato dalle tue parti? No, più o meno uguale, se stanno a forte, che 9+30 è qua il segnale, per cui per aumentare ancora 9+30 devi dare un kilowatt. Addirittura. Passo io, Natalì, sì. Ma tu cosa c'hai? Che microfono c'ha? Un Turner +3 sto usando adesso, di quelli grigi. Grigio, non è +3 plus come si chiama? No, questo è Turner +3 c'è scritto, è quello americano, grigio. Il plus, sì, quello là, no, perché io ho il +3B normale, quello nero. Perché la sento un po' metallica la voce, è strana però, per essere un Turner lo spingi parecchio, però la sento un po' metallica. Ce l'hanno di vizio a versione un po' metallica. Ed è basso mi dico, guarda, se aumento aria sei a metà, guarda un po'. No, ti ascolto forte, la radio è bella forte, Natalia. Ce l'avevo anche lontano poco fa, adesso sono più vicino al microfono. No, no, è forte, no, non ho detto, anche prima eri forte, niente da dire. Però sembrava un MB+5 con i tuni, cioè che ci ha messo tutti i tuni acuti. No, no, questo è un Turner +3, c'ho il Turner più il Mi, l'MB+4, già ce l'ho. Però non lo sto usando, è nuovo in scatola, non lo sto usando perché dovrei attaccarlo all'altro apparato, però c'ha il filo troppo lungo per quello. Quello che c'ha il filo lungo l'ho dato a Antonio, le mani mi dovevo tagliare. Quasi Sant'Unio che... Crepa è colpa mia, Tra me e Natalino cosa cambia? Ma di segnale? Eia! Il cazzo, già hai fatto lo conto, Antù. Basta, ma sta di nevaria. Ma anche Natalino si fa sentire, tu sei 10 punti su lui, 9,20, tu è 9,30, ma a voi la cena per i pulci. No, controlla adesso quanto sono, che ero con... vai, cocomane! 9+25 Natalino e 9+30 Antonio, però gli dai mattana a Natalino sotto. Sì, e l'ho tornato a abbassare il microfono. Mi pare da Claudio lo bassavo addirittura Antonio. Smetti la coccomane! Niente, attaccato, vero? Tanto io tanto! Ola, ola, ola, ola, ola! Vedi? 4 watt! Finirà, tieni! Anto, tu lo passi di poco, però ti disturba parecchio. Coccomane, mettiti sotto casa che te lo do io, mettiti! Adesso prendo la macchina e vengo sotto casa tua e ti faccio vedere che ti faccio schiattare, hai capito bella be? No, non lo fare Natalizio, no, ci rimetti in finale, mamma così. Cos'hai tutti, tanto io un baracchino non lo servi. Ti faccio schiattare. Mi schiattate con le mani della forza, mi sono, me ne vado. Vieni, vieni, fammi schiattare, vieni, vieni. Ai te, yuhuhu! A te l'immagini che mi sta minacciando questo Antonio, a te l'immagini, Robè. Mettiti la portante, non farlo parlare con lo sonno, lo fai parlare come diceva uno, tu parli col muro. Adesso lo faccio parlare col muro. Vai, fammi parlare col muro, vai. Gesù Cristo mio. La mazza che te ne scenda. Miraio di Greba Natalio, buongiorno. Dimmi tu, sono con 4 watt, mi guarda. Vai coccomane. Stacca allineare a tu. C'è tutto attaccato, mi, te. È tutto attaccato quello lì, io sono con i watt dell'apparecchio. Io l'unico che sono originale sono io, mezzo watt sto uscendo io, e con l'altro ben corto. Mi basta che non sia. Sto scherzando, adesso, non volevo fare la prova. Chi è l'amico che è entrato? Ciao Roberto, sono Sosso. Ciao Franco, e a me mi ascolti bene a Sosso? Sì, vi ascolto tutti bene. Alle 9:10. Ma come arrivo io a Sorso? Con la radio. Con la radio? E allora? Dico il segnale quanto sono. 7:10. Ai. Franco, te lo immagini a questo qui, mi sta minacciando questo Antonio. Se salgo a campagna mi prendo una certa cosa, glielo do io il tanto, a quell'Antonio. Che c'è una cosa che c'ha le valvole come bottiglie. Quelle questi zuccheri, ma non c'è bisogno Natali, che tanto me lo credo del radio non butto due a Edo. Vai finirà, se no sollevo ancora di più me. Non sollevare. Aspetta. Guarda, adesso sono con 4 watt, Franco, tu adesso che sei lontano, noti la differenza. Guarda un po' adesso. Da 4 a 7 sei andato. E quindi lo stesso segnale di Antonio. E sono con i watt dell'apparecchio. Capo, sì, lo stesso segnale di Antonio c'hai. Ma la connessione è molto diversa. Vai a baciare un boom. Aspetta che avete parlato di due. Antonio, io quanto mi alzo su già. Fra, come arrivo a Sorso io? Che segnale? Tu sei 8, sei un po' più alto di loro. La radio è chiara a 5, pulita? Sì, la radio è sempre pulita. Ok. Questo qua male. Alla. Antonio. Mi dica. Ho detto di fare da bravo, se no vengo e ti picchio. Pensa la risa nelle cappate, Antonio. Ma non c'è bisogno di cui dire a Edo, ma che trago una mazzetta? Non ve la fate con una mazzetta, ma a Natale non li voglio bene, no, non è possibile. Ci diamo rispetto e stima, di lui già lo sa, non c'è problema. Capo, avanti, ma Robè. E Natalino quanto ti arriva di lì a te, coso? A tu? Io che non venne più, me. Tu cioè, ti ha fatto qua tutto lui dallo Svizzera? Natalino mi arriva quasi 9:60, siamo vicini. Lo profeta non ne parliamo. Ma il profeta secondo me brucia il baracchino, cioè siete troppo vicini. Il profeta mi arriva 9:60, ma la cosa è reciproca, Ma tu anche se sei con mezzo watt, siete talmente vicini, lui con mezzo watt non fa parlare a nessuno a Sassari se lui attacca. Paga Gianni! Lui se esce con mezzo watt e noi con 100 watt, tutto Sassari, tu senti sempre a lui, siete troppo vicini. Beh, è normale. Come io con Claudio anche con mezzo con 300 milliwatt schiacciava tutti, arrivava talmente forte, addirittura quando usciva con qualcosina in più dovevo per forza attenuare, se no non lo sentivo neanche io, era talmente forte. No, vabbè, ma Gianni qua, cazzo, è una cosa che non si crede. Vabbè, siamo vicini. E coso? Binario, Franco Binario, come ti arriva? Lo stesso forte deve arrivare. Franco Binario. Franco. Ma California. No, Binario, non si chiama Franco, quello di Viale Sicilia. Un bel forte arriva. Quella a casa mia, con la radiolina piccolina l'altro giorno, ero toccata ogni segnale, ogni radio, bellissima, pulita pure. Poi dovrebbe arrivarti, chi c'è di lì vicino, chi c'hai tu? Forse Luca ti arriva un bel forte. Sì. Anche Luca, ma il più forte di tutti è Natalino Gianero Profeta. E di quelli più lontani invece? Poi c'è Franco California che in Oggi mi arriva una fucilata. Quelli più lontani la veloce. Ma Franco California c'è una posizione invidiabile, è la parte più alta del monte si può dire. Sì, lui è mirato, arriva forte anche qua Franco, è sempre arrivato forte. Franco va via una stazione, prima guai. Forse gli è spezzato il tubo dell'antenna e mi è caduta. Però c'aveva una stazione Franco, paurosa. Anche tu Natali non scherzavi quando eri su a Filighina. Lo so. Già lo so. Io mi è rimasto in campagna un affare che c'ha le valvole paurose. Ha dubbiato una cosa, la luce. ma defibrillato. Ti è arrivato in campagna? Sì, ce l'ho in campagna. Vassiglie. Ecco qua, ho cambiato il radio. Abbassa un poco. Ma cosa? C'è un bel forte. Come un bel forte? Di segnale? No, la radio. Abbassa il macchinino, non tu, è troppo. Cappa, sta. Un po' meglio qua adesso? Un po' meglio? Prova a parlare. È un passaggio più lungo e abbassa ancora un po'. Vuoi altre prova? E truppa ancora. Abbassa, gatto. Perché c'è tutto bubuni. A metà dovresti metterlo, mi sembra. Quello lì. Cappa. Ora. Così dovrebbe andare un po' meglio, vero? Perfetto, non toccare niente. Cappa, cappa. Allora, Cighi. Com'è col cappa? Qual è il segnale? Dai, prova a parlare, scusa, l'ho girato un attimo. Prova. 2, 3, prova. Più o meno come l'altro, però la radio è più forte questa. Ma non gridare, Antonio, sennò fratti. Parla piano. Era chiara chiara poco fa. Capa, no, io c'ho la voce molto alta, ho il vizio da fare la voce, ho visto. Dai. Minchia, che può fare, Anto, però o sei troppo vicino al microfono, perché poco fa eri bello pulito, adesso stai di nuovo un pochettino alto la palla. Che c'ho il vizio da alzare la voce, c'ho. Capito? Ora vuoi se va meglio. A te che ti ha disturbato sotto una tagliina, prova a parlare. Vabbè. Un attimo fra. Ehi, guarda a vedere com'è. Perché c'era poco fa. C'era poco fa, il processore è staccato e quindi andava a trappare. Guarda a vedere se va meglio adesso. Ma senza processore sì. No, col processore. Lascialo così, va benissimo, perfetto. Dimmi fra. C'era appena accesa. Poi c'è la caldare un pochettino, poi già si mette a posto anche la radio da sola. Franco, guarda a vedere se qualcuno ha qualche cappa da vendere, che serve a me. Che capita? Capita, io te lo dico. Capito, vabbè, quella radio lì, il cappa, quello appena accesa, esce male. Sì, è probabile, sì, è successo. Poi ti spara un po' di potenza quando è fredda, poi si stabilizza. Il 440 è il contrario invece. Capo. Vabbè, il 440 è diretto. Quello lì a freddo funziona, mentre il 140, il 680 devono scaldare. Sì, si devono stabilizzare, è vero, vero. Buongiorno! Chi è? Avanti. Ciao Roberto, ciao Don Franco. Natalino e Antonio, non ne ho sentito altri. Io per abitudine faccio 2 minuti di ascolto per vedere che c'è in ruota. Buona giornata a tutti. Avanti Antonio. Capa, buongiorno. Giulio, buongiorno, buonasera e ben ascoltato. Avanti break. Dai, una buona giornata a tutti. Gianni doppio lungo. Caffa, salutoni Gianni e ben sentito. Ciao ragazzi, allora tutto ok, adesso accendo, vediamo un po' se c'è qualcuno, almeno di domenica, qualche c'è la mia data, me la voglio fare. Non sta più inteso. Sono impegnato, sto facendo cose a casa, capito, sono un po' impegnato questo periodo, ma già, ogni tanto già entro, e sono entrato anche l'altra sera. Non ti ho sentito la verità, Non coincidono gli orari, altro, facciamo girare, dai, avanti Roberto, buongiorno anche a te. Ciao Gianni, ben sentito in compagnia mia, di Giulio, di Franco da Sorso, Antonio e Natalino. Facciamo parlare prima e più lontano, Franco, avanti Franco per Gianni. Capo, ciao Gianni, ben ascoltato, sempre bippante come te sempre. Bisogna essere così, un po' di peperoncino e fa diventare bimbante. Ciao, avanti Giulio. Ok, ciao Franco, ciao Gianni. E ciao di nuovo a Roberto e a Antonio. Antonio sta un po' strappando per conto mio. E ciao Natalino, riprendi Natalino. Riprendo e vi saluto perché io devo mangiare adesso. E purtroppo il diabete non bisogna fa tutto a orario. ci sentiamo alle prossime, dai, vi ascolto comunque. Ho bianco per me, scusatemi, no. Strappando so, Giulio, non penso adesso, no. Se non gridi, non strappi, perché ricordati che man mano che scalda aumenta. E allora, se tu gridi, allontanati dal microfono, che sicuramente arriva una modulazione più pulita. Va bene, dai, si è allontanato Roberto. Avanti Gianni, dopo alcuni giorni che mi sento, con piacere naturalmente. Vai Gianni. Ti volevo chiedere se è arrivato, se stai usando quello. No, sto usando il Cobra 139, baracchino 4 watt, microfono l'MD più 4, il solito e niente di più. Ancora non è arrivato, arriva tra qualche giorno, di questa prossima settimana che verrà. Va bene, dai, comunque. Va bene così, anzi saluto anche Claudio perché sicuramente l'ascolto, perché poc'anzi l'ho sentito ma poi mi sono allontanato e non ho fatto in tempo a salutarlo. Comunque rilancio adesso il microfono, lo rilancio per Franco di Sorso. Vai Franco. Ehi capo, non ho capito se Natalino si è andato via, comunque è andato via, ciao Natalino, alla prossima. Ehi capo, a tu, il microfono, quella radio deve scaldare. Se entri prima di scaldare, esci male, non toccare mai niente. La palla a scaldare prima e poi moduli. E dal microfono tiriti almeno un 20-30 centimetri dalla bocca. Già lo so, già, ma io ho visto di gridare, ho il vizio, capito? Cioè, c'ho una voce molto alta, però adesso dovrebbe andare bene. Ehi, più calda di cuscini voi, allora. No, adesso sto uscendo benissimo. Confronto poco fa è molto, molto migliorata. Perché quelle ragioni devono scaldare, e basta. Se no, esce in mare. Infatti io la tengo sempre accesa, e da una parte, anche se uso un altro baracchino, capita che la uso, l'aggancio e va diretta. Sì, lo so, è K, ma così già va bene però. Poi, si prende giù. Ok, a tu. Sì, ma anche a 50 cm puoi parlare, con il microfono non hai problemi di modulazione se tu parli a distanza. Fai come ti sto dicendo, vedrai che nessuno ti potrà dire che stai strappando. Soprattutto, come ti stanno dicendo anche gli altri amici, fanno scaldare 5-10 minuti, perché quella fa, hanno scaldato e aumentato di watt. E dunque, se tu mi dai una modulazione alta con Mike Gain, e poi c'è l'aumento anche del watt, si moltiplica, ed ecco che va a finire che strappi. Invece no, aspetti 5 minuti, 10 minuti, scalda, e però poi ricordati sempre di modulare a distanza, almeno 40 centimetri, 50 anche meglio, col microfono non ha bisogno di soffrire nella maniera più assoluta, perché è talmente sensibile che anche a distanza da una stanza all'altra ci puoi parlare e riesci e arrivi bene. Ok, dai, facciamo entrare adesso Gianni, avanti Gianni. Ehi, adesso siete tutti ben attrezzati. Arturo, si è attrezzato dove? Andare, vabbè, almeno dai, è la soddisfazione che avete una bella radio. KK. Chi c'era di altro? C'era Roberto e poi... Roberto si era allontanato per un attimo, c'è Franco da Sorso, ci sono io, c'è Antonio e Natalino che sta pranzando, per cui sarà sicuramente ad ascolto. Se lo vuoi salutare, ti sento da senz'altro, vai. Riprendi tu, riprendi. Ma abbiamo parlato in due? No, riprendi giù. Ah, ok, ho capito, appunto ti stavo dando l'indicazione, l'appello di chi c'è la frequenza. Niente di più, niente di particolare. Allora Franco, il braccio ti è passato, il dolore al braccio che ti sei procurato ieri? L'antenna l'hai tirata su? No, l'antenna è sempre giù. Già mi sta passando piano piano, mettendo una pomata già mi sta passando. È uno stiramento di nervi. Ok Franco, comunque anche così con lì basta l'antenna, mi arrivi, è una meraviglia, veramente. Un bel segnale e soprattutto una bella modulazione. Ottimo per la truppa, per tutti noi. Avanti Antonio. K, dai, ho ricambiato un radio, uso questa, dai. K. Però già mi sentite bene con questa qua, sì. Già ti sentiamo bene, Antonio, già lo sappiamo che esci bene, è inutile che stai chi vi dirà dire sempre. Cambia quando vuoi, tutte le volte che vuoi, ma non ce lo chiede nemmeno. Quando ci vale te lo diciamo noi. Va bene? Ma non è un'osservazione, ma è un modo per andare avanti nel QSO, è inutile che stiamo lì sempre chiedendo controlli così e così. Te lo diciamo noi se ci vale, stai tranquillo, no, non ci sfugge intanto. Avanti Gianni. Stiamo facendo delle prove, eh. Benissimo, non c'è problema. Ma quell'antenna là, quella sbloccata, tanto quella che avevi fatto modificare. No, negativo, negativo. Già, no, non l'ho montata. Ma con questo valla? Sì, l'ho provata così, ma no, c'è qualcosa che non mi piace. La devo far sistemare ancora, c'è un qualcosa che a me non mi va bene, capito? Non si quadra qualcosa, ho capito, vabbè. Allora, a vedere, adesso alternata non se ne sente più il microfono. Negativo. Gianni, tu stai uscendo bene, se ti riferivi a quello stai uscendo bene. Cappa, il filo l'ho cambiato, va. Hai fatto bene, hai visto? Hai trovato la soluzione giusta, così va benissimo, non c'è problema. Anche Franco, che è un po' più lontano, te lo potrà confermare. Vai Franco. No, sto facendo benissimo, anzi, cala una radio molto forte anche ciò, come timbro di voce, che a volte all'inizio abbassavo quando entrava lui. È molto forte da fare, però è chiara, bella, perfetta. Sì, così, c'è se ne sa fare, quando qualcosa non va bene ci mette mano e trova un sistema e una soluzione, per cui non c'è problema. Avanti a tu. Capa, no, già va bene, già, a Puglia che va bene. Sì, non ho messo anche più lungo il capo, anche se non c'è bisogno del microfono da tavolo, però quello lì era proprio, cioè, dove c'è lo spinotto, era corto, arrivava già al giro della spirale e non mi piaceva nemmeno, capito? Qual è già quello il microfono? È Super Sidekick. Ah, sì, è bello, c'è una bella modulazione. Super Sidekick vuol dire calcio d'angolo, perché si usava nelle bande laterali, no, calcio Super Sidekick. Si usava nelle bande laterali questo microfono, la storia è questa. Ehi, capo. Giulio, ce l'ho un metro da terra nel terrazzo, dai mattoni, i radiali. Franco, almeno arrivi spalato, sai cosa vuol dire spalato? Non c'è niente da dire, veramente bene, pulito proprio alla grande. Per cui per me personalmente, la puoi anche lasciare così, poi naturalmente sei tu che decidi quello che devi fare. Però se per caso ci fossero dei dubbi, io ti posso garantire che qui da me arrivi spalato veramente. Per cui va bene, benissimo, più che bene anzi. Avanti Antonio. Capax, che stupido, avevo la ventola accesa e me la buro tendere un gabbo. Oioioi. Che cos'è la ventola accesa? Vabbè, se te la avevi accesa è perché magari quando scalda parte da sola, suppongo che sia così. È un alimentatore switch di quello, è tu. No, me l'ho dimenticato di staccarlo perché sto usando il normale, capito? Ah, l'ho compreso. Va bene, dai, comunque. Sono cose quelle che possono anche succedere, non c'è problema. Avanti Gianni. Sì, sono molti da... Ne sono entrati altri oltre, ho sentito che è stato anche Claudio, ma Claudio ha piazzato l'antenna. Diciamo che Claudio è in fase di assestamento, per cui sì, diciamo che si fa sentire, però in fase di assestamento, tu lo sai, lui ha bisogno di tempo, perché tutto il lavoro che ha fatto in questi giorni certamente non le ha lasciato troppo tempo per pensare alla radio e soprattutto all'antenna. l'avrò voluto sentirlo anche più in là, magari tra uno o due giorni. Quando si sarà sistemato, lui già sai che Giulio Claudio è sempre praticamente il numero uno della frequenza. Non c'è problema. Avanti, Franco. La linea c'è basso, un bel basso sta uscendo, a meno che non c'ha un punto buono a mettere un'antenna, se no è molto basso, che mi arriva 3-4 a me. Adesso l'ha messa a posticcia un'antenna così, un'antenna tanto per parlare, dai. Farà bravo, farà bravo. Lasciatelo fare a Claudio, che già lo sa lui quello che deve fare. È tranquillo, se vuole che ti arrivi 9-9-20, già lo sa come ti deve fare. Ciao Claudio, e beh, come va? Sto facendo il fuoco, che c'ho gente a pranzo, c'ho tutte le cose che mi affida. Buongiorno a tutti e buona domenica, comunque, dai. No, io sto usando la mantova, Franco, ma è a 2 metri da terra. Devo chiamare l'autoscala per metterla sul tetto, ho capito, quindi non ti preoccupare. All'uovo è a tempo le cose, non è che me devo preoccupare del baracchino adesso. Buona domenica a tutti, un abbraccio, ciao ciao. Ciao Claudio, 9:15 quasi. Appunto, hai c'ho l'antenna a 2 metri sopra il muretto, devo metterla a 10 metri dal tetto ancora, però ci vuole l'autoscala perché non mi fido a salire così sopra le tegole. Ciao Franco, quindi ti arrivo Santiago 3, già va bene, tu arrivi Santiago 0. Ehi, ciao, ciao. No, come ho detto, se metti l'antenna, perché l'altra volta mi sembra che in campagna mi arrivavi 9. Sicuramente non hai messo l'antenna in alto, sicuramente, se no ti arrivi. E riportati a ascoltarti, poi il segnale non è niente, Claudio. Ah, guarda, non è che mi interessi più di tanto, mi interessa che sto bene, che finalmente ce l'ho fatta a finire il mio sogno, ok? Quindi non mi interessa per il momento. Sì, sì, sto usando la manta ormai a 2 metri da terra, fratto sia Santiago 5, Gianni è Santiago 9, Giulio è Santiago 9, Antonio è 9+10. Ok, dai, vi saluto che c'ho il fuoco acceso, ciao ciao. Quanto ti arrivo, qualche fra adesso? Stai arrivando, 3. Però la radio è buona, 5. Vabbè, considera che ti arrivo 3 con 3 watt, quindi adesso quando attaccherò il capo poi vediamo. Dai, ciao a tutti, buona domenica. Ciao, ciao, soltanto considerare anche che io ho l'antenna in terra, cioè, l'ho abbassata del tutto per una manutenzione. C'ha un metro e mezzo di stilo, cioè, più in alto del tetto. A me che schirreggia la voi. Giardino, dai, ciao a tutti. Ciao Claudio, buona domenica. Avanti Giulio. Ok, riprendo io allora, non c'è nel problema. Claudio già non ci delude mai in quanto a trasmissione. Chiaro Guido, va bene così, non c'è problema. Tu, canta. Dimmi se stai scaldando la griglia, la graticola. Oggi no, oggi salsiccione non ce n'è. Caffa. Oggi passa il tonno, l'ha già fatto io il sugo, a me che è buono. Non vuoi draghi a Russi? Guai di scintine da mezzo a draghi. Se no che fai drago se a me. Russi è giù. Allora, rimani la mia campani, domani siamo a Lanciata, tu campani il rubio, domani la Lanciata invece, lo sai come ti è con la lancio, si può dire così, da un giorno all'altro passiamo, dalla campagna alla Lanciata, vero Gianni? Vero, io sto aspettando che mi portino una cosa, ma devono viaggiare da fuori, non possono venire, sto aspettando che il cavolo scatti questa zona bianca di nuovo. Poi, comunque io il vaccino l'ho fatto, il primo l'ho già fatto. Hai fatto bene, io ancora non ho fatto niente, anzi non ho nemmeno prenotato, per cui andare così non c'è problema, c'è tempo, intanto c'è sempre affollamento in questi hub dove vaccinano, c'è il giornale lì dove fanno i vaccini al Palazzo Rosa o questa accidente di Giamma, c'era il tuo, l'hanno seguito a calcio, poi hanno disinfestato naturalmente, perché è giusto che sia così, ma così tiro qualche topo che è entrato dalla strada e che lo sa, boh. Comunque, sempre notizie sempre colorate sono queste. Avanti Franco. Capo, ho visto un video, ho visto che stavano seguendo un topo, si è nascosto dietro una sedia a rotelle, mi sembra. Sì, è un giovane che lo martellava magari attraverso le ruote di questa carrozzella appunto, per che si usano lì negli ospedali, eccetera. Bene, sono cose che succedono. Poi non parliamo di quel deficiente nigeriano che in pochi giorni ha tentato di violentare tre ragazze qui a Sassari, uno in via del Carmine, uno sulla Budibudi, credo, o addirittura tutti e due, mentre facevano yoga. Non è possibile. Ma com'è che l'hanno imbigliato? Speriamo di erogare 40 anni e che poi lo sollicitano con una sollegata al collo, con una bella corda e buttato in mare, così eravamo con la frase di Mario Nisciuno. Avanti a tu. Beh, de cudi luvoci, cudi una bella zuccia che tu, hai che tu miserabile. E io va a bancare di parte mia matessa cosa, mentre buono in compagnia. Ebbene, Natali, ti ha pronunciato, sto finendo. Ah beh, tu vai in anticipo giustamente, perché devi fare la terapia che devi fare, per cui fai bene a tenere gli orari regolari, che quello è importante. Va bene, se prendi Gianni. Vabbè. Capo, a me, no, la cosa è questa, Giulia, a me mi hanno chiamato da un centro diabetico, mi hanno detto dove fare il vaccino. Sali che diabetico, quindi bla bla bla, e mi hanno fatto fare il vaccino, mi hanno dato il giorno e tutto l'ora, anche l'ora. Sì, perché appunto certe persone vengono chiamate direttamente dal centro, come in questo caso il centro diabetico, eccetera, e poi altri centri di patologie diverse, magari chiameranno altri pazienti ovviamente. Stavo dicendo, cosa ti hanno fatto? Che il Pfizer ti hanno fatto? Oppure Moderna? No, Pfizer. Infatti, per i pazienti con quella patologia lì fanno il Pfizer, ma potrebbero fare anche il Moderna, perché sono simili come qualità di vaccino. Andrà bene, avanti Franco. Capo, io riprendo e già vi lascio, vado a pranzo. Ci sentiamo, buon pranzo a tutti e ci ascoltiamo le prossimine. Ciao Natalino, ciao Gianni, non so se Roberto è rientrato, Antonio e Giulio. Avanti Giulio e poi girare, correti per me. Ok, ciao Fra. Grazie allora per le quattro chiacchiere, ci sentiamo eventualmente se coincide stasera, se abbiamo voglia di parlare, fare ancora queste 5 per terra, radio bomba, no, non c'è problema, nonostante l'antenna sia a livello di persona, dell'altezza della persona, va benissimo così, non c'è problema. Faccio girare per i saluti, incominciando da Natalino, che non so se si è allontanato dal piatto, ma suppongo che ti abbia sentito. Vai Natalino per salutare Franco. Ciao Fra, le prossime. Saluto a tutti, rimango in ascolto io, da. Franco, ci sentiamo. Ma saluto e Fra, ci sentiamo alle prossimine. Avanti Giulio. Ok. Roberto non è più rientrato, evidentemente lui non è potuto rientrare per questa. Vabbè, pazienza. Già siamo qua eventualmente, perché non penso che stia parlando anche lui, visto che è ancora presto, sono appena le 12:29 minuti, praticamente mezzogiorno e mezza, per cui ancora per alcuni di noi è presto. Va bene, dai, riprendi già. E vabbè, fra poco vado via anche io, che devo andare a aiutare la cucina, dovrei preparare il pranzo. Oggi ravioli. Che marzo. Buoni. come sono? Cosa hai fatto? Ravioli ai formaggio o alla ricotta? Ricotta e spinaci, però sono fatti artigianalmente. Sono di quelli che sono belli panzutti. ok, buoni, buoni. Buoni e rinfrescanti, soprattutto. Va bene così, non c'è problema. Io non lo so, perché non mi ha detto niente mia moglie cosa sta preparando, ma sicuramente qualcosa di molto soddisfacente, anche perché mia moglie cucina molto bene. Avanti a tu. Cappa, qua siamo in due invece a cucinare. Cucino bene sia io che Sara. Cuciniamo bene tutte e due, siamo di buona forchetta. Pisa e Mantù. Ah, ma mi piace così, mi piace. Ci collabora. Così a tu. Però scommetto che tu sei più portato per arrostire a tu. Io suppongo che tu sei più portato per quello, che per altro genere di cottura in cucina. Ma guarda, faccio di tutto. Arrostisco, no, non ho problemi. Faccio di tutto e di più. Sì, Arturo, da quando era a casa della madre cucinava, quindi è normale che sappia fare le cose. Insomma, il più scarso sono io, che io non so cucinare niente di niente. Al massimo potrò saper imbottire solo qualche panino. Fai quanto a cucinare. Ui, venga piccino, che è meglio. Stavo dicendo, a questo punto allora tu hai... fai tutto in cucina, alla fine ti tocca lavare i piatti, buoni, la rosaia. Perché non lo faccio, un bel volte mi alzo, quando sono annoiato mi alzo alle 4 di mangiare, non mi riposo, quando mi piglia la paranoia, mica non so cosa fare, mi alzo, non so cosa fare, mi sono ripeto che per che piatto la faccio, me ne posso io, e poi prima facevo tutto io a casa, tutto di più facevo, quindi sono abituato a fare queste cose. Ah beh, no, ma è bello saper fare queste cose, o altro, ci mancherebbe altro. Io intendevo quello. È bello anche il fatto che tu dia una mano in casa per queste faccende qui. D'altronde così. Bene, bene. Sono contento per te. Avanti Gianni. Ecco per me, dai, che mi ha chiamato, che è pronto a mangiare. Ciao, risentiamo. Ciao, ciao. Ciao a tu, buona carica, dai, avanti. Ok, ciao a tu. Buon pranzo allora anche a te. Ci sentiamo prossimamente, stasera, se coincide. Bene, bene. Siamo rimasti io e te, Gianni. E Natalino magari in stand-by, non so, io adesso lo rilancio, Natalino, vediamo se può continuare. Natalino. No, rimango in stand-by, giù. Sto facendo cosa qua? Va bene, d'accordo, Natalino. Ok, avanti Gianni. E allora, come mai non sei più presente in frequenza come nel passato, Gianni? Sì, capisco che magari sarai impegnato, ma mi pare che tu sei impegnato con il carisso, di la verità, eh? Ah, no, è quello, e c'ho anche altri impegni. Comunque, giù, non ti si può fidare manco a lavare i piatti a te, non te lo ricordi più la schiuma che hai fatto. Infatti, c'era stato... Basta, te l'avevo raccontato, già te lo sei ricordato. Ma dai, dai. Quello era successo nell'altra casa dove abitavo prima. Sì, ma io che cosa ne sapevo che succedeva così? Perché io facevo un po' di detersivo a ogni piatto, no? Fregavo e poi prendevo un altro po' di detersivo. Alla fine, ragazzi, è cominciata a uscire schiuma dal lavandino e non finiva mai. Dove stato 3 ore, ma di più di 3 ore per eliminare la schiuma, perché buttavo sempre l'acqua, più acqua facevo scendere il lavandino e più schiuma saliva. Boh, voglio fatto. A un certo momento mia moglie mi fa: ma cosa stai combinando? Sto lavando i piatti. Ehi, ma l'anima, ma se ci sei 4 ore? Perché lei non poteva in quel periodo, che non stava molto bene. E allora io glielo spiegato, io faccio così. No, non si fa così. Se tu metti schiuma ogni piatto, è ovvio che... Cosa ne sapevo io? Con Gianni, spediti, le risate era morta. No, io li lavo così. Prima li sciacquo i piatti, metto il detersivo in una bacinella, poi prendo con la spugna, gliela passo su ogni piatto, li sciacquo bene e poi li metto a muglio nell'acqua. E c'è tutta la prassi per lavarli come si deve, dai. Bisogna, poi ripeto, la vasca che con la spugnetta abrasiva, bisogna saperlo fare. Io le vedevo la mamma come le faccio.